Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Una sola parola è sulla bocca di tutti, un solo colore riempie lo sguardo di ognuno, il bianco, e la parola è la neve. Leggo i titoli questa mattina nella Free Press che mi hanno dato nella metropolitana di Roma, assediata dalla neve. Neve e ghiaccio, 48 ore di paura. In effetti è vero, in Italia non si parla altro che di neve. Ieri sera sono andato in un negozio per comprare un paio di calosce ai miei figli. Erano finite. C'era stata la corsa, l'accaparramento ai moon boot, alle tute da sci, agli stivaloni siberiani. Chissà perché la neve noi la andiamo a cercare. Una o due volte all'anno diamo fondo alle nostre finanze e passiamo una settimana e mezzo alla neve. Una settimana di tortura o di divertimento. La neve ci piace, la andiamo a cercare. La neve è un grande affare. Ma la neve, quando lambisce le nostre città, diventa improvvisamente un incubo. Questa mattina vorremmo che voi mi faceste da inviati. Da qualunque parte d'Italia voi vi trovaste. In questo momento sono avvolto nella bufera, qui al centro di Roma, dove sta cominciando a nevicare. I figli sono a casa perché da ieri il sindaco Alemanno ha fatto un'ordinanza d'emergenza, ha chiuso tutte le scuole per emergenza neve. Figuriamoci, questa mattina erano tutti felici perché c'era la neve. Se voi guardate su YouTube e sul profilo Facebook di Melog, già vedrete i video verità della neve che ha riempito anche il nostro studio, come vi stiamo dando testimonianza sonora. Perché abbiamo tanto paura della neve? Perché la neve ci coglie così impreparati? Ma se noi invece che a Roma, Milano, Napoli, Palermo vivessimo a Oslo, cosa faremmo? Se noi fossimo cittadini moscoviti, in questo momento quale sarebbe il nostro destino? Eppure la neve, quando coglie le nostre città, è come se fosse un'improvvisa catastrofe. Siamo quasi ad entrare in uno di quei film che annunciano la fine del mondo. Forse sarà perché il 2012 arriverà l'asteroide, il meteorite, e saremo tutti coperti da una sorta di ghiaccio eterno. Beh, questa mattina vorrei che voi mi raccontaste il vostro rapporto con la neve. La neve era una gran gioia, quando eravamo piccoli, mi ricordo, nevicava, eravamo tutti felici, tutti contenti. Perché oggi la neve viene annunciata come se fosse una sorta di disastro nucleare. Si fermano i treni, si bloccano le città. Ieri ho visto una sorta di appello a Bologna. Si chiedevano spallatori volontari. Pensate, questa mattina gli umarel bolognesi, tutti con la loro pala, saranno lì pronti dalle 5 di mattina per spalare. Ma per spalare cosa? 800240024, una sola parola, neve. Tutta la notte continua a nevicare, il freddo e il ghiaccio possono creare dei problemi, dei disagi alla circolazione anche sulle autostrade. 40 centimetri di neve caduti in una sola giornata, temperature sotto zero e tanti disagi. Una giornata così, la città di Bologna non la viveva da anni. Qui a Torino sta ancora nevicando, non ha mai smesso una nevicata che sta diventando sempre più intensa. A Milano viene una leggera neve ghiacciata, sono piccoli fiocchi di neve ghiacciati. Il problema più grosso a Milano, esattamente come a Torino, è l'abbassamento delle temperature. Fa freddo e si sta alzando anche un vento gelido. E il problema più importante nelle prossime ore sarà poi il ghiaccio, che logicamente si formerà con il discendere delle L'inverno temperature. L'inverno solitamente fa freddo e quindi d'inverno si abbassano le temperature. L'inverno solitamente soffia vento ghiacciato. E quindi d'inverno normalmente si forma del ghiaccio. D'inverno ogni tanto nevica, perlomeno. Ci sono dei posti dove nevica più, dei posti dove nevica meno. A Roma è un avvenimento quando nevica. Ma la neve in Italia sembra che improvvisamente abbia corrisposto a una sorta di evento unico. Sembra quasi che noi avessimo finora vissuto una sorta di paese caraibico, dove la neve non esiste, non si è mai vista, non si sa cosa sia. Avevamo una volta una babysitter che si occupava dei nostri figli quando erano un pochino più piccoli. Non aveva mai visto la neve in vita sua. Era cingalese. La portammo un inverno a vedere la neve. Era impazzita. Aveva 40 anni. In 40 anni non aveva mai visto la neve. La toccava, era circondata da questa cosa meravigliosa. Era come se si trovasse in una sorta di sogno, in un mondo fatto di zucchero filato. Non era possibile per lei percepire che potesse esistere la neve. Sì, l'aveva vista in qualche film, sapeva che esisteva, ma non sapeva quale fosse quella meravigliosa sensazione di essere flagellati dalla tormenta, come siamo flagellati noi in questo momento, assaliti da branchi di lupi famelici, come sta accadendo qui a Piazza Indipendenza a Roma, o circondati da una bianca coltre di neve che tutto copre. perché viene considerato un evento così unico da essere raccontato? Voi direte perché le città si bloccano, le città si fermano, i treni non vanno più, perché non siamo più preparati alla neve? Ma eppure nevicava, io ricordo, nel 56 ci fu la Calaverna, ci fu una grandissima ghiacciata in tutta Italia e in Umbria si ghiacciarono tutti gli olivi. Tagliammo quegli olivi e per anni avevamo quei bellissimi pezzi di olivo che tenevamo in una cantina perché, chissà, dice a mio padre, un giorno potremmo farci con questo olivo, con un tornitore, delle cose bellissime. Passarono decenni, io avevo già 30 anni passati, ancora c'erano gli olivi tagliati dalla Calaverna messi in una cantina. Nessuno aveva il coraggio di fare legna da ardere di quella legna d'olivo, però quello era il segno di una neve unica, di un nevone che aveva coperto tutto, ghiacciato tutti, non ci fu raccolto quell'anno. Fu un anno veramente terribile. Brigida, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì, giusto, scusa. Niente, mi sembra che... Lei sta tenendo a bada i lupi con un manico di scopa mentre sì, parla con me. Sotto un sole meraviglioso a Milano, in effetti. Ma come, non sta nevicando a Milano, non c'è l'emergenza neve? Ma che? C'è un sole, le strade asciutte, io... Ma come, io guardo i profili Facebook dei milanesi, soltanto foto fatte con la neve. Questa mattina hanno tutti dato fondo alle batterie del loro iPhone facendo foto della neve, ma dove l'hanno fatta queste foto? La neve si fotografa perché è bella, ma con questo non vuol dire che siamo sommersi. Mi sembra che tutti quanti stiamo prendendo l'abitudine a drammatizzare un po', anche quando piove. Forse in assenza di drammi concreti e reali. Ecco, mi sembra che siamo diventati ipersensibili in tutti i sensi, da un punto di vista nervoso, allergico e anche alla meteorologia. Appena nevica, io lavoro con i clienti e tutto il giorno ho appuntamenti. Che lavoro fa, Brigida? Sono estetista. E mai come quest'anno tutte le mie clienti hanno rimandato gli appuntamenti preventivamente, perché non perché avevano realmente la difficoltà a venire, ma perché avevano paura di avere difficoltà a venire. E quindi ci sarà, scusi Brigida, una totale, radicale e dolorosa carenza di depilazioni brasiliane perché c'è la neve? No, io non faccio depilazioni brasiliane. E comunque, cosa fa? Mi occupo di trucco. Beh, con la neve comunque, si mette soltanto delle creme protettive, dei balsami per non ghiacciarsi. Sì, ma a parte gli scherzi, guarda, mi sembra che siamo diventati tutti ipersensibili, abbiamo tutti molta paura di avere danni, di avere problemi. Sentiamo Enrico, un momento, l'emergenza, sì. Enrico. Non dico niente di particolare. Dove sta lei? Io sto guidando, sono a Firenze, sono qui. Alle catene a bordo, Enrico? No, certo, cioè no. Ha un telefono del soccorso alpino? No, ci mancherebbe. Ha un cane San Bernardo nel bagagliaio? No. E come affronta l'emergenza neve? Niente, che cambia i punti di vista, cambia praticamente il tempo, praticamente se prima da tot a tot ci vuole 10 minuti, con la neve ce ne vuole 20. E questa cosa ci sconvolge perché l'essere umano, anche io e lei, tutti abbiamo una tempistica precisa, vado a fare la spesa. Vedesse come sono vestito io questa mattina in studio, ho le galosce da neve, ho la sciarpa, ho i guantoni siberiani, ho la giacca a vento, sono prontissimo a affrontare la neve. Sì, ma io faccio l'autista e mi rendo conto che la gente è abituata a un orario, a una tempistica precisa al minuto, e quando con la neve si va più piano e questa cosa, come le dicevo prima... Allora l'ascoltatore Enrico enuclea la prima fattispecie psicologica per cui la neve sconvolge la nostra vita. La neve rallenta, quindi c'è qualcosa che rallenta il nostro dinamismo quotidiano. E quindi la neve viene considerata come una sorta di calamità, di flagello, e quindi di conseguenza anche i treni che prima arrivavano in orario sono bloccati e rimangono un paio di mezze giornate fermi sui binari. 800240024, cosa state facendo per affrontare l'emergenza neve? Buongiorno, insomma, 12 ore di ritardo, com'è andata questo disseo? Non mi dica, ero congelata, cioè per fortuna c'era questo treno super riscaldato che... Ci siamo fermati a 3 chilometri da Forlì. Ci siamo fermati lì e siamo stati fermi tantissimo, fino alle 6, alle 7. Malissimo, perché siamo rimasti 6 ore al freddo, al buio, senza corrente. Chiamavamo polizia, carabinieri, non veniva nessuno. Lo sforzo del capotreno, però non lo stava a sentire nessuno. Guardate, io posso anche giocare sulla facezza, sul surreale, farvi sentire la bufera di neve che il professor Rocchetti mi sta mandando in sottofondo e darvi l'impressione che sono affondato fino alle cosce dentro una coltre ghiacciata, che sono qui con un paletto aguzzo e con una torcia nell'altra mano a tenere lontani i lupi. Se volete questo potete pensarlo bene, ma in effetti la neve ha causato dei problemi. Perché non siamo pronti ad affrontare la neve? E perché allo stesso tempo, questa è l'altra metà della domanda vorrei porvi, la neve viene rappresentata come il luogo del diletto, il luogo della vacanza fuori stagione, perché diciamo la verità, le vacanze invernali, le settimane bianche è qualcosa che almeno una generazione di cinquantenni non era poi molto abituato, oggi è quasi un obbligo, le scuole chiudono perché una settimana bisogna andare a fare la settimana bianca, quindi la neve è una fattispecie indispensabile al nostro benessere, al nostro piacere, al nostro tempo libero, alle nostre attività sportive, alle nostre attività ludiche, quanti cinepanettoni sono state fatte di vacanze sulla neve. Eppure la neve, quando ci viene a cogliere a casa, è come se improvvisamente ci svegliassimo e avessimo una spiaggia fuori del portone condominiale. Dovrebbe essere una gioia, dovremmo essere tutti contenti, metterci in costume da bagno, tuffarci in acqua. No, invece quando la neve arriva a trovarci a casa, improvvisamente diventa un incubo. Entra un altro film nel nostro immaginario, il film della catastrofe. Daniela, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei cosa sta facendo? Come affronta l'emergenza neve? Io l'affronto soprattutto parlandone con mia mamma, che ha 97 anni. In che luogo, di questa landa ricoperta dai ghiacci lei si trova? Allora, io sono a Milano, mia mamma è a Milano, vive da Milano da più di 80 anni, ma lei è cadorina e... Quindi se ne intende di neve? Sì, diciamo di sì. Anzi, diciamo che è della parte più a nord del Cadore, quasi al confine con l'Austria. E questi giorni sua madre cosa fa? Esce con i pattini e va a pattinare a Piazza Duomo? Mia madre tutte le volte che vede la neve qui a Milano, tenga conto che non ha l'Alzheimer, cioè è ancora in grado di ragionare. Ecco, per lei il massimo della gioia potrebbe essere quello di andare a spalare la neve insieme con gli spalatori che non ci sono. Quindi per lei il sindaco dovrebbe chiamarla per andare a spalare la neve. Questo proprio sarebbe la sua massima gioia. Sì, perché è una delle attività più divertenti, spalare la neve quando nevica. Ma non ho capito. No, è una delle attività più divertenti nei luoghi abitati e civilizzati, non di montagna, quando c'è la neve si prende la pala e si spala la neve. Esatto, è bellissimo. Esatto. Adesso probabilmente si aspetta soltanto che ci sia qualcuno, portinaio piuttosto gli addetti del comune, che vengano a togliere la neve, quel po' di neve davanti a casa. È bello che le città sono già in salamoia da giorni e giorni. Qualcuno dice manca il pepe e l'olio, poi ci potremmo fare un pinsimonio con le nostre città. Sì, e sua mamma, penso che immagino che guardi e rida e sorrida di quello che sta accadendo. Stefano, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi sente? Descriva l'inferno di cristallo e di neve che è intorno a lei. Ah, Bologna è pieno di neve. Ah, Bologna nevica davvero, vedi, non è uno scherzo. Adesso no, però ne abbiamo... Ma non ci sono gli umarel con le pale che vanno a spalare? Sì, è pieno, però volevo dire... Hanno una ragione d'esistere fantastica questa mattina. Gli umarel sono eccezionali. No, ma le volevo raccontare, si dice sempre che ci sono i lupi con la neve. No, qui ci sono gli sciacalli con la neve. Perché ieri ho lasciato la macchina parcheggiata un quarto d'ora, sono uscito e mi avevano rubato le catene. Ah, aveva le catene, diciamo, già montate, sì, gliele hanno staccate. Me le hanno rubate. Vabbè, diamo la notizia, ci sono dei ladri di catene, attenzione. Ladri di catene. Cosa si mette? Una catena antifurto per le catene? Ah, non lo so, bisognerà metterci un lucchetto d'ora in poi. Compratevi una catena e attaccate le catene con la catena. Catena. E cosa ci fanno i ladri di catene con le catene? Devo avere delle ruote uguali alle sue, perché... Beh, logico. Poi non è che sia una spesa che manda in misera a comprare una scatola di catene. Però, quanto costeranno? 70 euro più o meno? 50, 70, dipende dalla misura, però è una cosa allucinante. Il fatto è che mi ha lasciato in questo periodo trovare le catene. No, montarle soprattutto è un'attività che non raccomando nemmeno al peggior nemico. Ma no, dai, adesso si fa abbastanza facile. Ma io sono sempre stato negato, sono sempre ridotto una bestia e le catene erano messe male. Non è avvezzo con la neve. Comunque è bello vedere nei giardini Margherita qui a Bologna che a quelli che facevano footing si sono sostituiti quelli che fanno fondo adesso. Ah, ci sono gli sci, stanno sciando a Bologna ai giardinetti. Bellissimo. Notizia, a Bologna stanno sciando ai giardinetti, fanno fondo, bellissimo. La gente ha tirato fuori le attrezzature. E via. Chissà se faranno la stessa cosa a Roma. C'è qualche piccolo fiocco dalle finestre di Piazza Indipendenza, ma noi naturalmente abbiamo supplito con un bel batuffolo d'ovatta davanti alla nostra telecamera, e quindi abbiamo messo già su YouTube filmati fantastici di Roma coperta da neve, così abbiamo preparato il lavoro per chi verrà poi e farà il reportage. Oggi immagino tutti i telegiornali, Roma sotto la morsa della neve. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Sansonna, tu so che in realtà sei uno dei pochi che... Senti, c'è anche un bambino che piange. C'è Alessandro che sta guardando la neve che cade copiosamente da stanotte. Insomma, mi raccomando, massaggiali i piedini, sennò vengono dei sintomi di congelamento. No, qua siamo a due passi dal set di Ultimo Tango a Zagarolo, ma sembra l'Overlook Hotel di Shining. Dove ti trovi? Io sto a Cave, appunto, nel Prenestino, qui cioè, vedo dalla mia finestra appunto per la neve Lorena, la mia ragazza che ritorna perché eroicamente è andata a prendere il tabacco, nonostante appunto 2 mesi di neve. A Cave, hai detto, Cave cos'è? Nei castelli romani, una cosa del genere? No, è oltre, sui Monti oltre. Prenestini. Ah, sui Monti Prenestini, quindi Sansonna scende dalle montagne. Ah, dove... Esatto. La patria di Ultimo Tango a Zagarolo. Esatto, a due passi dal set di Ultimo Tango a Zagarolo, e però appunto, come ti dicevo, sembra l'inizio di mese di andare a morire quando lo scrittore va via dall'albergo e poi finisce nelle grinfie di Katie Bates. Ecco, scusa Giuseppe, ne approfitto, visto che sei lì bloccato la neve mentre stai facendo dei massaggi con il cordiale e gli oli balsamici al tuo bambino perché non si congeli, tua moglie è andata a nasconderti l'ascia perché non si sa mai... Vado a prendere le sigarette. Ah, prenderti le sigarette. Senti, mi dici nell'immaginario cinematografico come è stata usata la neve, come elemento suggestivo, come elemento romantico, come elemento che atterrisce. Ci saranno vari filoni, immagino. A me, come ti dicevo prima, l'immagine più forte è quella del finale che inchioda Jack Nicholson nel labirinto di siepi, che lo inchioda congelato mentre sta inseguendo la famiglia completamente impazziti, Jack Torrance. Probabilmente la neve è piuttosto... Allora fermati Giuseppe, il professor Rocchetti ha trovato il magico reperto, lo mandiamo per dare ispirazione a chi in questo momento si è bloccato nelle sue case coperte da neve, in via Ludovisi, ai Parioli, in via Condotti, staranno lì e ascoltando questo reperto fantastico avranno ispirazione di come passare il loro tempo libero. Mi correggo, il professor Chiappini, no Rocchetti, ma la coltre di neve che mi occlude la vista nel vetro che separa la regia dallo studio non mi ha fatto cogliere le anche notevoli fattezze del professor Chiappini. Sentite, c'è soltanto un urlo, l'urlo di Jack Nicholson, e c'è una bufera in sottofondo simile a quella che sta avvolgendo noi alla radio. Krazimir, buongiorno. Sì, Krazimir, buongiorno. Lei è bulgaro? Sono di origine bulgara e vivo in Italia da 12 anni. Quindi si intende di neve quella vera? Abbastanza sì, direi di sì. Quindi, ecco, volevo dire che io abito a Roma e da una parte mi dispiace quando vedo che la città comincia ad imbiancarsi e questa cosa blocca tutto e tutti. Beh, è accaduto due volte negli ultimi 20 anni, più o meno. Sì, sì, beh, ma anche 2 anni fa mi sembra di aver visto quei due... Sì, ma è durata un quarto d'ora. Sì, è durata un quarto d'ora. Hanno fatto tutte le foto sì. Improvvisamente, piena di foto, ma in realtà effettivamente è durata circa dalle 10 alle 11:15 di una mattina. No, più che altro volevo dire, ecco, vedo che la gente ha proprio questa paura. La signora che è intervenuto 10 minuti fa ha detto la stessa cosa, che vedo proprio che la gente ha paura della neve invece che di essere una cosa piacevole. Non siamo più abituati ad affrontare queste difficoltà. Lei pensi, questa mattina la metropolitana A, zona, tratto Ottaviano, Piazza della Repubblica, sembrava la tenda rossa del comandante Nobile, per quanto c'era dentro di attrezzature da alta montagna, quindi è logico che eravamo tutti ad aspettare chissà cosa dovesse accadere. Ma secondo lei è l'atteggiamento giusto nei confronti di un fenomeno naturale? Perché siamo così spaventati dalla neve allo stesso tempo? Lei è bulgaro, quindi conosce zone in cui la neve probabilmente cade normalmente, più copiosa, e fa parte, diciamo, del vivere quotidiano senza nessuna eccezione. Ed è una cosa piacevole anche per, non solo per i bambini, ma per gli adulti, per gli anziani, direi, perché... Eh sì, beh, gli anziani mica tanto, ogni tanto qualcuno scivola e si fa anche male, non è proprio l'habitat ideale per l'anziano le strade ghiacciate. Per chi va tutto il giorno in giro sì, però per chi sta a casa è una cosa piacevole, anche se esce un attimo fuori si gode comunque il freddo e la neve più che altro. Quindi lei dice in realtà la neve, secondo la lettura che facemmo all'inizio, quella fantastica, e poi ci terminerà Giuseppe Sansonda facendo appello ai suoi elementi cinematografici, in realtà la neve dovrebbe dare un senso di felicità, di contentezza, di uguaglianza. Sotto la neve si è tutti uguali, si diventa tutti amici, si sorride e ci si tira le palle di neve, si fanno i pupazzi, la città si trasforma in un grande campo di giochi, perché è la stessa ragione per cui andiamo a fare le settimane bianche, andiamo a giocare con la neve, a scivolare con la neve, a provare l'ebbrezza della caduta vorticosa e della risalita, perché quando nevica in città improvvisamente ci facciamo prendere dal panico. Melog, la realtà condivisa. Per me non era questo il problema, perché la potevo tenere pure a casa. Però ho detto andiamo a sentire, perché così si, cioè, non è che fanno qualcosa, per carità, però si mettono a giocare, invece di stare a casa a prendere freddo, insomma, stanno qua a scuola. L'ho portato perché i genitori lavorano tutti e due, l'ho portato più che altro una scelta, che effettivamente se no il bambino sta solo, se no deve stare con qualcuno per casa. Che vuol dire che vengo a fare la babysitter? Non lo so, io vengo a scuola e lavoro, se ci sono i bambini tanto meglio, altrimenti lavoro con quelli che ci sono. Sta aumentando la bufera qui al centro di Roma, da dove stiamo trasmettendo. Avete sentito un reportage fatto questa mattina da alcune scuole romane e chiuse per ordinanza che non si è ben capito del sindaco. Oggi i ragazzi potevano non andare a scuola per l'emergenza neve, ma gli insegnanti dovevano andarci. Il vero problema è soprattutto nei ragazzini piccoli, chi li lasciano? Tanto più che oggi non c'è la neve, una giornata quasi normale, ha piovuto, ha fatto qualche piccolo e sparuto fiocco verso le 10:15, adesso guardo dalla finestra, vedo sì, il cielo è abbastanza bianco, ma è normale, siamo a febbraio, che cosa ci dovrebbe essere? Il sole sarebbe assolutamente un'eccezione. Chiara, buongiorno. Buongiorno Gianluca, le volevo dire che io ho mandato la mia bella bambina, qui in Svezia ha vinto una borsa di studio e l'Erasmus, e ci sono dei posti un po' inospitali. Lei pensi che comunichiamo via Skype e sento che poi non è la capitale della Svezia, ma è un paesino al nord. Adesso non ho neanche... L'ha mandata in Svezia? Io non sono una mamma molto protettiva, però questa volta mi sembra di avere un po' esagerato, perché Erasmus, si parla anche Monti, dice sto ragazzi sbrogliateli fuori, vai cara, vai. Che vuol dire, l'ho mandato nel posto più impervio, penso, di tutti gli Erasmus, perché... ci sono gradi tipo 28 gradi sotto lo zero. Adesso che sta andando al cinema il remake di Millennium, quello è il posto dove gli uomini odiano le donne, l'ha mandata proprio in uno dei posti più pericolosi per una ragazza. Comunque sì. le consiglio di ragazzina. Intanto io ho speso una fortuna a attrezzarla, perché vabbè, sono non una mamma iperprotettiva, però ho dovuto comprare tutto ciò che c'è di più tecnologico. Cioè la vestita come Totò e Peppino e la mala femmina, no, quando arrivano a Milano. Carlo, ci sono adesso dei tessuti altamente tecnologici. Sì, ma li vendono in Svezia, fabbricano e vendono in Svezia, potrà comprarli in loco, se li va a comprare... No, perché le svedesi camminano con i tacchi sopra, mi racconta, sono abbastanza ambientate, insomma, l'indigene... Ma bastava camminano... che andava all'IKEA e trovava tutto. Comunque va bene, l'ha mandata via con questo... container di attrezzature tecniche per la neve, sua figlia che fa? Cammina con i tacchi sulla neve? Palazzo spaventoso, il caro mio, e è là che racconta delle storie ogni giorno sempre più, cioè, ci sono le renne per spostarsi. È anche non Babbo so. Natale, una cosa bellissima. Vabbè, sua figlia contenta e fortunata, lei come se la vede con la neve che sta attanagliando in una morsa di ghiaccio 48 ore di paura, leggono i titoli dei giornali. Io sono una commerciale, viaggio... Si crede che non me ne sono, se non fosse che ho sempre la radio accesa, c'è tutto sto ma non sente la bufera alle mie spalle, scusi, come ma fanno a accorgersi? Guardi, a Brescia c'è una giornata, sembra primavera, non c'è un filo di bianco, non riesco neanche, non si riesce un pochino. Come non c'è l'emergenza neve, non c'è la morsa di ghiaccio. Gianluca, ci hanno dimenticato, nessuna emergenza. Ma pensi un po', veramente, questo mi sorprende. È primavera, allora a Brescia è primavera, mentre la figlia di Chiara è in Svezia e sta con i tacchi a spillo sulla neve con tutta l'attrezzatura che ha comprato la mamma. Serena! Ciao, ciao Melog, io sono a Forlì, in una periferia che si chiama Pieve Quinta. Lì c'è la neve almeno. La neve altissima, oh. Qui non smette di nevicare da 3 giorni, c'è la neve che continua, siamo a -5. Comincia a scarseggiare il cibo? Noi abbiamo un piccolo alimentare che però è stato preso d'assalto. D'assalto da tutti e non riescono i camion ad arrivare perché noi siamo su una strada, è un paesino che è sulla Cervese. Quindi ci sono stati casi di cannibalismo? No, ancora no, però io ho una bimba di 13 mesi, sono incinta di 2 mesi. Incinta di 13 mesi? No. Non ho capito male. Sono incinta di 2 mesi ed ho una bimba di 13 mesi che... Ah, no. Pensavo che la neve avesse rallentato anche i cicli biologici. Quindi qui non si può fare altro, visto con questa neve alta, che fare... Ormai ha già fatto, che vuol fare? Sta lì, aspetta sotto la neve. Però è bellissimo. No, lo immagino. Siamo ancora isolati perché si riesce a girare con le catene, comunque, piano piano. Mio marito lavora in 118, è riuscito ad andare a lavorare, quindi... Quindi, diciamo, sa bene quali sono le operazioni da compiere in certe circostanze. Ma certo, ma è una meraviglia, è stupendo. Si va fa bene. Quel che si può. Comunque, è un caso in cui la morsa di ghiaccio è reale, presente, però non crea il panico. Ma potrebbe anche essere una sorta di euforia data da una situazione di pericolo. Valerio, buongiorno. Eccomi. Lei sta a Roma? Sono a Roma, nella sperduta Roma. Ce l'ha le racchette? Sulle Alpi. Ha messo le racchette da sci questa mattina? Certamente. Cioè i racchettoni? Sì. Certamente. Come si è vestito? Ascoltando, diciamo, ieri sera... Ho i mammut ai piedi. Certo, i mammut, certo. I mammut. Chiamavo perché per la neve non riesco a trovare il parcheggio qui al quartiere San Paolo, ci sono mucchi e mucchi di neve, non riesco a entrare con la macchina, è un guaio. Il Campidoglio è in una morsa di ghiaccio, mi hanno detto. Ma me lo immagino, ma infatti da lì fanno il bob, non so se hai visto bene. Assolutamente. Dalle scalette. Dall'altare della patria stanno pattinando dalla statua bellissimo, di Vittorio Emanuele per tutta via del Corso. Certamente, lì si fa sci nordico, non so se sai. Favoloso, fino a Piazza del Popolo si va con gli sci. E poi quale altre situazioni di neve e di morsa di ghiaccio a Roma lei sta registrando? Ma è una cosa infernale perché tante macchine in giro e non riesco a trovare proprio oggi perché nevica. Lei pensi oggi hanno tutti i figli a casa? Neve, il ghiaccio e c'hanno i figli a casa, non riesco a trovare parcheggio. Senta, a quartiere San Paolo, c'è notizia di branchi di lupi affamati che stanno scendendo lupi, da Via Condotti? Addirittura. Sì. Io questo, Via questo Condotti invasa dai lupi affamati. Ma infatti. Anche la lupa capitolina. Approfitta del momento per concedersi carnalmente, finalmente trova dei lupi, dice, dopo tanto tempo. Finalmente, era ora. Va bene, grazie di questa preziosa e verace testimonianza di Roma in una morsa di ghiaccio, come aveva giustamente previsto il sindaco. Serena, buongiorno. Serena ha parlato, Giovanna. Pronto? Buongiorno, dottor Nicoletti. Dov'è lei? Dunque, nella morsa di ghiaccio? Da Milano. C'è la morsa di ghiaccio? La morsa di ghiaccio c'è stato fino a ieri, oggi c'è sole, abbiamo delle stalattiti bellissime d'argento che cascano dai balconi, molto belle da vedere. Si attenta che rischia di essere impalata da una stalattite, se non sta, deve vedere dove mette i piedi. No, è molto tragico. Quando cadono... Allora le dirò che alle porte abbiamo Napoleone che sta passando la Berezina. Ah, davvero? Questa è anche una notizia. No, perché ci sono dei quadri meravigliosi di questa avventura con la neve, che sono bellissimi. No, in effetti, ma Milano è abituata alla neve. Io mi ricordo. Ma allora si è abituata perché c'è stata tutta questa tragica sequenza di notizie, di cronache? Beh, in effetti perché ritarda il lavoro, ritarda arrivare in ufficio tardi. E quindi i milanesi non possono correre a lavorare come è loro istinto e quindi devono andare un po' più piano. Sì, l'istinto del dovere che ci angoscia, Infatti non tutte le scuole hanno chiuso, non tutti, chi ha voluto è stato a casa, chi ha avuto gli mandati, soprattutto i piccoli, no, sono rimasti a casa, ma i ragazzi di superiori, anzi, io mi ricordo che quando ho fatto le superiori ho bigiato e sono stata al parco, Sempione, dalla mattina alla sera a far pallate di neve, sono tornata a casa, ho dovuto buttare via il cappotto ed ero felice. E allora poi non c'erano queste attrezzature tecniche, c'era un misero cappottino. Io mi ricordo che un cappotto di cammello. Un Loden di cammello, che era l'unico baluardo contro il ghiaccio. Ma lei leggo nella sua scheda che le ricorda Fellini la neve, la nevicata di Amarcord. Sì, Amarcord. Quella scena di Amarcord è stata bellissima, con questi mucchi di neve, questi che ci si perdeva praticamente nella neve. Si perdeva, sì, perché in Emilia cade molta neve ed è molto bello, però la gente lì è molto allegra, la prende con allegria. Eh sì, perché chiaro. Insomma, però la neve di Fellini è veramente... Guardi, visto che lei sta toccando le nostre più profonde corde poetiche, questa mattina abbiamo colto su YouTube un improvvisato poeta della neve e vi facciamo ascoltare il suo carme struggente alla bianca coltri che tutto ricopre. Sembro broccoli questa mattina. Cade già la neve. Non si sposta l'aria su queste altre finestre, dove il mare ha l'urlo di radici a scombinare il fiato sulle vele, e mi racconta il fiume di sempre quel sapore di ponte che ha gli occhi ai viaggi di novembre, e mi racconta il vento che di te allontana. Non so se il sapore di ponte è il sapore della gomma del ponte o la poetessa va assaggiando i ponti morso per morso, sentendo il sapore di ogni ponte, di ciò che passa sotto i ponti. Giuseppe Sanzonna, sei ancora vivo? Sì, sono qui, nonostante fischi il vento e infuri la bufera di neve qui sui monti prenestini. Siamo come Lara nel Dottor Zivago, lanciati sulla Transiberiana con la carrozza senza riscaldamento, cioè quella temperatura poetica, oppure come il cane di... Pensa oggi Umberto Broccoli, ispirato sia dai monumenti romani di cui sovrintendente, sia dalla sua vena poetica, non fa altro mandare poesie e citazioni sulla neve. Beh, senti, Sanzonna, tuo figlio non lo sento più piangere, questo mi preoccupa, quindi o l'hai messo... L'abbiamo sguinzagliato sulla neve. Ah, l'hai sguinzagliato. Ormai a farti un pupazzo, ormai è un anno, sei responsabile di te stesso. Ha una botticella di cordiale al collo, così se incontra qualche assiderato può salvargli la vita. Esatto, come un piccolo San Bernardo. Allora, fermiamoci un attimo, Giuseppe, perché vorrei da te una più dettagliata rassegna della neve trattata cinematograficamente, scusate, ma le corde vocali sono ghiacciate da questa bufera. Ci fermiamo per le informazioni del traffico, utilissime in questo caso. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Voi siete sicuri? Sì, certo, funziona sempre. L'unica cosa che devi fare è andare da lui e dirgli... Avevo detto che avrei pagato io i biglietti, poi invece ho dimenticato la mia carta di credito alla stazione di servizio. Certo. Dei soldi però ce li ho, solo che non bastano per te. È l'ultima, godiamocela. Vabbè, basta, sentiamo solo rumori di sportelli. Questa è una seggiovia che rimane bloccata in Frozen Trailer e tre ragazzi rimangono intrappolati lì. Un'avventura terrificante, la neve. Voi potrebbe accadere nell'ascensore, potrebbe accadere nel sgabuzzino delle fotografie, nello sgabuzzino delle scope, potrebbe accadere con il carrello del supermercato. Non lo so, se è vero che il paese è in una morsa di ghiaccio, potrebbe accadere di tutto. Danilo Maso Masotti da Bologna mi manda il decalogo dei lati positivi della neve. Starà lì facendo foto agli umarel che spalano, ma dice questo decalogo: può arrivare in ritardo e nessuno può farti osservazioni, puoi assistere a simpatici scivoloni dei passanti, può tirare una palla di neve sull'auto del vicino tanto caduta dal tetto, puoi dimostrare che il comune è inefficiente, non rischi colpo di calore, nessuno penserà mai a farti un gavettone, puoi camminare all'indietro così puoi ingannare i tuoi inseguitori, puoi attaccare di scorso una bella figa dicendo hai visto che neve oggi, puoi finalmente usare la pala comprata da Castorama, che sarà un grande magazzino per umarelli. Puoi fare sfoggio di conoscenze meteorologiche dicendo cose tipo: quando i fiocchi sono grandi, tra un po' smette. Giuseppe Sansonna. Eccoci qua. Velocemente, la rassegna, la neve nell'immaginario cinematografico. Beh, prima è stato citato a Mark Ord la battaglia di Palle di Neve, che riesce a essere poetica nonostante la faccia tapiracea di Alvaro Vitali fra i ragazzini, insomma, imberbi. Che poi c'è la goffaggine dei di Fargo, dei fratelli Coen, no? Dei criminali immersi nella neve, insomma. Ma c'è una scena in un film non eccezionale come Amici miei, atto terzo, che però è il loro viaggio al Polo Nord, in questa nevicata finale, però è un momento poetico molto, molto forte, in cui loro intravedono addirittura la morte in questo cielo bianco. Però il meraviglio di te, Giuseppe, non ha citato un capolavoro del maestro Benigni? Ce l'avevo in serbo. So dove vuoi arrivare. La tigre e la neve del poeta di Prato, cioè del grande. In questo poeta, caso la moglie Benigni cos'era? Una sorta di fata di ghiaccio. Andava in coma, ma non si riconosceva la differenza dallo stato, insomma. Invece sì, da quando recitava negli altri film, certo. Andava in coma, e comunque lui, attraverso questo viaggio eroico in cui erano straziati anche Tom Waits, il povero Jean Reno, insomma, c'era tutta la poesia con la P maiuscola, che però non veniva sommersa. Vabbè, questa tua freddura avrà condannato tuo figlio definitivamente ad essere assiderato. Lasciamo Sansonna ricoperto la neve in quel di Cave, sentiamo Vilma. Vilma, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dire che secondo me stiamo molto esagerando, come in tutte le cose che succedono in Italia ultimamente. No, io non me ne sono accorto. Io facevo un'attenta cronaca. E purtroppo io penso che i bambini non possono più neanche divertirsi, perché io mi ricordo, andiamo indietro un po' tanti anni. Ma lei dove si trova in questo momento? Io mi trovo in una giornata stupenda a Mantova. Come a Mantova non c'è neve? A Mantova è nevicato un po' ieri l'altro. Però non c'è panico, morsa di ghiaccio, 48 ore di paura, come leggono i titoli dei giornali? No, forse noi siamo in un'oasi felice. Oggi andremo a fare un bel giro sui laghi di Mantova. Ghiacciati? No, ma che ghiacciati, ci sono le anatrine, ci sono i cigni. Cioè le anatre sono vive, anche d'inverno? Sì, non sono congelate. Come a Central Park? Sì, uguale. Una bellissima giornata. Abbiamo risposto a un enigma del giovane Holden. Carlo, buongiorno. Carlo. Pronto, buongiorno. Lei è un sindaco? Io sono un sindaco di un piccolo comune di 4.000 abitanti in provincia di Bergamo. Ha fatto delle ordinanze speciali per la neve? No, non le ho fatte, ma si può dire che rischia sia io che la mia famiglia a non farle. Perché? Cosa sta succedendo? Io amavo profondamente la neve fino a 7 anni fa, quando sono diventato sindaco. I miei cittadini me l'hanno fatta odiare, perché al primo fiocco di neve prendono d'assalto il sindaco, perché certo, deve chiudere la scuola. È colpa sua. Perché deve cominciare una settimana prima. Ma lei faccia come Alemanno, sindaco di Roma, mette le mani avanti, chiude tutto, così sta tranquillo. No, assolutamente. No. Addirittura ieri mi hanno chiamato i giornali a chiedermi perché non chiudevo la scuola. Oggi a Bergamo c'è il sole, tutte le strade sono pulite, ci sono scuole chiuse in altri comuni e ritengo che sia un'assoluta assurdità. Le maestre addirittura chiedono alle mie figlie quando tuo papà chiude la scuola. Perché vogliono starsene a casa. Sì, questa è la cosa che mi fa andare più in bestia. Bravo sindaco, questo è un bel esempio. Io mi ricordo la mia maestra quando, che considerava quasi un disonore non andare a scuola. Andavano sempre a scuola le maestre, anche attraverso i campi minati, anche attraverso le orde dei barbari stupratori, sempre, mai una maestra mancava a scuola, non si ammalava mai. È all'assurdo che la maestra chiede a bambine di 8 e 10 anni perché tuo papà non ha ancora chiuso la scuola, quando chiuderà la scuola tuo papà? Senta sindaco, una cosa, ma c'è neve per strada nel suo paese? La neve ormai è solo nelle aiuole, le strade sono completamente pulite. Quindi si circola tranquillamente? Sì, non io c'è... adesso sono andato in macchina fino a Bergamo, ieri sono andato in macchina a Brescia, ha nevicato un po', ma è una cosa assolutamente normale. Da e quindi noi... comunque le scuole sono regolarmente funzionanti, come è giusto che sia? Nel mio comune sì, nel comune accanto al mio no. E cosa fanno i ragazzini? Che fanno? Niente, in giro per... Non vanno a scuola, stanno a casa, il sindaco fa l'ordinanza. Faccia conto che ieri mattina ho ricevuto il primo messaggio alle 7.29 del mattino che mi chiedeva se chiudevo la scuola, perché chiamano a casa i genitori dicendo: ma devo mandare il bambino a scuola quando c'è giù neanche 5 centimetri di neve. Bravo sindaco Carlo, e ha dato un grande esempio di attenzione comunque anche ai doveri dei ragazzi, che è giusto che le scuole siano aperte a meno che non c'è emergenza vera. Quando c'è l'emergenza vera il sindaco provvederà. Anna. Sì, buongiorno signor Nicoletti. Sì, dove sta io lei? Telefono dalla Toscana. Avvolta nella morsa di ghiaccio? Sì, Sì, è 3 giorni, mercoledì, giovedì e stamani è venerdì. Tutto un ghiaccio meno 5 abbiamo al mio paese. Le strade principali sono pulite. Ha provviste nel frigorifero? Sì, ho provviste. Per quanti non giorni può resistere? Quanti però giorni? Non mi posso muovere nemmeno per andare a fare una passeggiata perché è tutto ghiacciato. Ma quanti giorni può resistere con le sue riserve alimentari? Ancora 3-4 giorni. 3-4 giorni? Beh, in 3-4 giorni c'è caso che possa risolvere. Nel caso in 3-4 giorni non si risolvesse, cosa fa? Prende uno zaino e affronta la tormenta con delle racchette? Non lo so, ritelefono ai vigili, ritelefonerò alla comunità montana, mi hanno detto che mandavano qualcuno a mettere un po' di sale, almeno un po' di sale su questa strada. Ma lei non c'ha un po' di sale in casa da mettere almeno sul pianerottolo? No, non ce n'ho. Ha finito il sale? Ho finito. Provi un po', provi con il pepe. Però è bellissima, guardi, è bellissima. Il disagio è tanto, però è un sacco gusto. 30 centimetri che 30 centimetri. 30 centimetri abbondanti. Sono felice per lei, si goda questa abbondanza. Giuseppe da Bari, buongiorno. Buongiorno. Il tema, signor Nicoletti, stamattina lei ha detto che il popolo italiano ha paura della neve, specialmente in città. Ho questa impressione, ma forse mi sbaglio. No, può essere vero. Io penso che è un fatto atavico. Quando prima nelle case non c'era la fogna, allora durante la nevicata la gente, per liberarsi dei bisogni, la buttava fuori e si diceva: alla squagliata della neve escono i dolcetti. Allora per paura di passeggiare sopra i dolcetti, allora uno dice: meglio che non nevica. Può essere? Sì, ma voglio capire la differenza. Questa è un'importantissima testimonianza antropologica. Dunque, la gente vuotava i pitali per strada. Sì, sì. Sì. Perché non c'era il carretto che passava. Non c'era il carretto. Come si chiamava la professione del pitaliere? In dialetto si diceva la carretta. La carretta. Lei ha vissuto questa epoca della carretta? Io ero piccolo, sentivo suonare perché c'era gente che abitava nei vani sottoterra. Che anni erano? 56. 56, avevo. Io avevo 10 anni e me lo ricordo. Passava il carrettaro? Carretta, sì, che passava la notte verso l'una più o meno di notte. Mezzanotte, l'una. Ma da l'una fino a l'una del giorno dopo i dolcetti dove si tenevano? In casa. E si aspettava che passava questa carretta per svuotarli. Quando c'era la neve si buttava dalla finestra. Si buttavano per strada perché non passava questa carretta. Allora, nel momento in cui si scioglieva la neve, appariva tutto ciò. Di fronte a tutto questo. Ma questo è un importantissimo dato antropologico. La paura, e nello stesso tempo c'era questo modo di dire: alla squagliata appaiono tutti questi dolci. Quindi lei ha timore che in realtà questa nevicata ipertrofica ed esaltata nasconda sotto qualche dolcetto. Chissà al giorno del disgelo cosa scopriremo di sorpresa per le nostre strade e nelle nostre coscienze. Questo sinistro cariglione, non so perché me l'hanno messo, ma forse dall'idea di quei bellissimi giocattoli in cui la neve artificiale scende, è artificiale come artificiale la neve che è scesa oggi su Roma. Però io, a me, ho le galosce, ho la giacca a vento, ho i guantoni invernali e me li dovrò riportare a casa sudando. A lunedì.